Nel corridoio. Dunque, 34, 35, 36. Ah, ecco la sua camera. 37, esatto. E questa è? La chiave, the key. Bravissima! E una chiave? Una chiave, a key. Incredibile! Bella e intelligente. Lorenzo, please. Scusi. Allora, che ore sono? Le 7. Se non è troppo stanca, ceniamo insieme. What? Ceniamo insieme. We have dinner together. Ok? Well, yes, thank you. But I need to get changed. Nessun problema. Ci vediamo alle 9. At 9 o'clock. Va bene? 9 o'clock? That's not too late. Troppo tardi? No. In Italia non è troppo tardi. Ok, va bene. A dopo. See you later. Where? Dove? Alla reception. Arrivederci. Right. Goodbye. Arrivederci.